Mi viene già la voglia di chiedervi qualche cosa, perché voglio sfruttarvi un po' anche come coach, perché i risultati si vedono, bisogna fare come voi. Come ci si mantiene così energici, vitali, appassionati, positivi, sorridenti, pur avendo alle spalle, diciamo, un carrierone pluridecennale? Inizierei da Roby. Ma guarda, è chiaro che la qualità della vita è molto importante, l'alimentazione e il riposo è assolutamente determinante, no? Soprattutto ora che siamo in tournée. L'alimentazione anche è importantissima. Tu pensa che in tournée io mangio una volta al giorno, a mezzogiorno, a pranzo, Sì. poi un po' di frutta verso le 6, faccio il concerto e come scendo dal palco, io vado a letto immediatamente. Questa è una cosa che faccio in questi ultimi 10 anni. Fino a 10 anni fa, invece, la cena dopo concerto Non te la. era, anzi, le nostre tournée venivano fatte, la tournée a livello di concerto, e poi c'erano tournée enogastronomica ed era normalissimo. Adesso non ce lo possiamo più permettere perché è importante andare a letto, Assolutamente. riposarsi, alzarsi al mattino presto, una ricchissima colazione e Quindi poi, come dicevo appunto prima, un pranzo ben nutrito. ben nutrito, quindi Roby punta sull'alimentazione. Red? Ma assolutamente, vabbè, io sono Tu sei addirittura vegano, per vegano. cui mangio ciò che Dio ci ha dato, non ciò che l'uomo ha manomesso, per cui mangio frutta al mattino, che è il cibo degli dèi, frutta secca e frutta fresca, Sì. sempre cose di stagione a chilometro zero, e mangio anche io una volta al giorno, infatti ne parlavo prima in macchina e con Robby e mi trovo bene perché mangio proteine a mezzogiorno e poi prima del concerto magari così una banana, un po' di potassio, un caco in questo periodo che fanno benissimo e poi E poi dormire. Dodi, ti hanno già rubato il consiglio sull'alimentazione che va sì, sempre forte. Noi difatti. tra l'altro andiamo forte al giovedì anche col Filippo Ungaro che è un amico di Red e ti hanno già fregato il consiglio sul Esatto, sonno. esatto. Ma io Tu che direi cosa mi aggiungi? chiaramente non posso che appoggiare quello che hanno detto i miei amici e colleghi. Insomma, non è una novità il fatto che uno si alimenta bene, dorme bene, vive bene, insomma, fa una bella passeggiata, male non fa. Direi però che noi abbiamo probabilmente avuto la fortuna di avere una Sì. marcia in più in questi termini, nel senso che riusciamo anche a essere in un certo senso unici, cioè uni, interi, integri in quello che facciamo, nel senso che siamo riusciti a fare di una grande passione un lavoro, un mestiere. E il fatto di salire ogni sera su un palcoscenico e fare quello che ami profondamente ti dà Certo. un'unicità, un'interezza con te stesso che sicuramente è una delle cose che fanno meglio. E lo dici qua a Radio 24, che ha proprio come slogan la passione si Esatto, sente e nel difatti. caso vostro si La vede. passione si sente, è Bravo. chiaro. Alla mattina mi riesce anche a me questa voce qui. Sì. Magnifica.